Che pezzo bellissimo. Su Radio ZM sempre della musica incredibile comunque. Sì, io tipo sabato sera prima di andare a dormire ho messo il telefono sulla pancia, ho acceso Radio ZM, sarà state le 3 di notte, ti giuro che sembrava ci fosse qualcuno o qualcuna che metteva pezzi in una... Cioè, perché il nostro auto DJ è molto intelligente, anche molto antifascista, antirazzista, antisessista, insomma. Sì, è un po' il nostro R2D2 praticamente, il nostro robottino che ci svolta le situazioni. Quindi io sabato ero, cioè proprio, dicevo, madonna, ma che musica, un brano dopo l'altro aveva un senso che è incredibile. Ma poi senza pubblicità, cioè musica ininterrottamente. Diciamolo, cioè. Stefano, siamo veramente una radio libera. Questa è, per me è una gioia, io adesso ogni giorno mi sveglio e penso a sta roba, prendetemi per pazzo, però è così. È talmente libera che anche in questo periodo di quarantena trasmettiamo programmi giornalmente e diciamo facciamo intervenire anche persone da remoto o al telefono sui vari Zoom, Skype, FaceTime o quello che è. Sì, esatto, abbiamo una programmazione giornaliera settimanale che potete andare a vedere sul bellissimo sito di ZAM che sta subendo un restyling, però ci sono anche delle situazioni in cui entra una gamba tesa dei programmi che non te l'aspetti, che vengono preparati in maniera molto spontanea, che è questo un po' quello che cerchiamo anche, quindi questa vuole essere una chiamata a tutti e tutta, chiunque abbia voglia di proporre qualsiasi format, lo possiamo discutere insieme e qui c'è spazio comunque, la radio è libera, è aperta. E oggi appunto abbiamo la fortuna di poter fare una telefonata mirata a qualcuno. Sì, esatto, proprio così. La persona che andremo a sentire è un educatore che mi è capitato di incontrare in questo periodo, incontrare diciamo virtualmente, certo, in questo periodo, perché lui, insomma, mi hanno proposto insieme a degli altri dell'associazione per cui lavoro di fare un'intervista a un programma radio tenuto da un educatore. Ma diciamolo il nome dell'associazione per cui lavori, non facciamo che sia nascosto, vai, che magari non lo sanno da casa. 232 APS, un'associazione, insomma, facciamo hip hop, laboratori hip hop con minori ristretti in carcere o anche non. E insomma, questo Andrea, possiamo anche chiamarlo per nome, ci invita a farci un'intervista sulla radio, su un programma radio che conduce lui. E alla fine ho scoperto che appunto lui si è un po' riorganizzato la sua situazione lavorativa, lui appunto lavora come educatore, poi ci spiegherà bene lui, e ha creato un programma su una radio, una web radio, e appunto questo programma mira a utilizzare la radio come uno strumento educativo con i ragazzi e le ragazze. Andiamo a chiamarlo. Vediamo se ci risponde. Pronto? Pronto, ciao, ti chiamiamo da Radio ZM. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao. Come ciao, va? Ciao. Mi sentite? Sì, noi sì, noi ti sentiamo. Sentiamo, sì, forte e chiaro, tu ci senti? Sì, sì, vi sento. Perfetto, come stai? Sto bene, grazie. Voi come va? Dai, ce la caviamo. Oggi è una bella giornata, stiamo continuando a progettare cose, sempre tutto per questa emergenza, per tutte queste cose che stanno cambiando. Poi da 2 giorni a questa parte c'è un po' di movimento in giro, quindi stiamo cercando di capire anche un po' cosa sta per succedere. La movida, sì, ci arrivano delle notizie dalla Darsena, che non vedevano la Darsena così da mesi, anche prima dell'emergenza, quindi ormai siamo in vacanza. Bueno. Ma senti, sì, ci chiami da un paese fuori Milano, giusto? Sì, io abito a Lignano. Ok, e com'è la situazione lì? Vicino a Lignano. Vicino a Legnano, ma sì, devo dire che negli ultimi giorni abbiamo ricominciato un po' i movimenti qui sulle strade. Poi sono tra un piccolo comune che si chiama Rescaldina e una zona industriale, quindi penso che molte fabbriche abbiano riaperto e quindi un po' il traffico la mattina e nelle ore della pausa pranzo e del ritorno a casa è aumentato, c'è più gente in giro e via così. Poi mi si è scassato il telefono, oggi sono andato a recuperarlo e c'era un sacco di gente in giro, devo dire. Però non mi ha così fastidiato la cosa. Io scusate, però conio parole nuove, mi piace. Noi le scriviamo, Perché no ho problem. pensato che era bello che la gente fosse in giro, cioè comunque vabbè, la gente con la mascherina, eccetera, è tutto. Non lo so, mi ha dato un po' di positività il fatto che la gente è in giro. Poi vediamo se questo aspetto positivo non ce la farà pagare tra 2 settimane. Stiamo a vedere un po' cosa Speriamo di succede. no. Penso che sia una cosa umana e normale provare gioia nel vedere un sacco di persone nel momento in cui non le sei viste per tutto questo tempo. Quindi, a prescindere da tutto, comunque è vero, fa piacere. Anche io personalmente ho avuto la fortuna di rivedere un paio di persone molto vicine che non vedevo da 1 mese e mezzo, per esempio i miei coinquilini, che c'è tutto un discorso di quarantenati, siamo tutti a posto, eccetera. Però anche persone che magari vedevo nel mio quotidiano prima, nel momento in cui non le vedi per 1 mese e mezzo, forzatamente, è ovvio che fa effetto Sì. vedere le persone. Poi io ho l'esempio di Sì. Lambrate, che è un quartiere in cui sono tornato questo weekend, mi ha fatto schifo perché sono tutti incazzati neri, imbruttiti, però era prima del 4, quindi forse li giustifico un po', e invece magari adesso sono tutti più felici. Io ho visto i miei che sono venuti qua a rivedere loro nipote, che è mio figlio, e è stato questo, cioè mi fa piacere vedere la gente in strada, invece vedere i miei affetti. Non potermi avvicinare, dover stare attento, non poterli abbracciare. Questo invece lo trovo distopico, veramente. Questo mi ha dato molto, molto fastidio. Immagino. Sì. Vabbè. Ma senti, parlavi prima delle fabbriche che riaprono, si possono vedere i congiunti di vario genere, di tutte le cose che, insomma, che si sono riaperte o che, hanno ricominciato a funzionare i servizi educativi, soprattutto ai minori, sono proprio tra i grandi dimenticati diciamo, delle attenzioni Ciao. mediatiche. Ciao. No, vabbè, i grandi dimenticati. Diciamo che l'attenzione politica e mediatica si è concentrata per fare di tutta un'erba un fascio sulla scuola, e quella è il grande cappello che tiene tutto sotto gli interventi sociali sui minori. Molti comuni, io lavoro su più comuni, molti comuni hanno inteso che fino a che non riaprono le scuole, non riaprono i servizi educativi. Poi con più o meno senso, con più o meno ragione, i servizi educativi rivolti ai minori, io parlo. Sì. Certo. Alcuni comuni hanno chiuso tutto quanto, quindi neanche il contatto con i ragazzi, il proseguimento di attività laboratoriali o di lavoro educativo su gruppi o singolo attraverso telefono o attività in remoto. Invece altri comuni in cui lavoro hanno preso questa strada, per cui sono 2 mesi che da una parte sono in cassa integrazione e dall'altra sono 2 mesi che sono operativo, e abbiamo inventato un sacco di modi nuovi di fare il nostro lavoro Sì, con infatti dei bisogna. Certo, limiti e delle cose in più. Vai, vai. no, dicevo che ci siamo dovuti un po' reinventare e diciamo modificare anche di molto le cose che facciamo di solito, insomma. Sì, beh, oh, sì. Io di solito vado in giro, sono in giro per strada in luoghi di aggregazione informale, oppure intervengo nelle scuole, oppure sono in centri di aggregazione comunali. Diciamo che cioè, questo ovviamente è saltato, però il nocciolo della questione, cioè il senso del lavoro, la relazione educativa, basata sul fare delle cose insieme, propositive, attive, questo è rimasto, certo con nuove Certo. forme, cercando di reinventarsi. Quello che vai a perdere è tutto il lavoro ai margini, al contorno, cioè magari io vado in una compagnia che sta sempre nella piazza Tal dei Tali e lì so che con Tizio Caio Sempronio posso fare portare avanti un discorso di un contest fotografico della musica, del freestyle, con un altro invece tornei, l'organizzazione di tornei sportivi. Tutte le persone che ruotano intorno lì, diciamo, sono attivate da questa roba. Certo. Diciamo, con la quarantena invece io continuo a sentire Tizio Caio Sempronio per organizzare le robe, tutte le persone intorno invece le ho perse per strada, Certo. perché chiaramente. Certo. E lì ci rendiamo conto che non possiamo essere per forza tutti connessi. Eh no, È un po' eh no. distopica come visione dell'essere tutti connessi. Non lo sono tutti e tutte, assolutamente. Sì, vabbè, poi quello che fai lo ripubblichi su Facebook, su Però. Instagram, tantissima attenzione, tantissima concentrazione, cioè mi sembra di essere diventata un'agenzia comunicativa Io sono dimagrito praticamente. 8 kg, cioè per star dietro a tutte le cose. E prima comunque lavoravo in E la tua pagina quell'ambito. Instagram quanto è ingrassata, è quello poi il Ma in realtà punto. la cosa bella è che, nel senso, noi siamo della politica dell'abbasso l'individualismo, viva la collettività, quindi tutti no bene o male, tutti i nostri sforzi sono volti a pagine collettive che propongono comunque contenuti di tante persone. Ci organizziamo, ci sentiamo, ci scriviamo ogni 2 secondi per tenere su questa architettura e quello, a parer mio, inizia a diventare un po' stressante. Ma Voi non siete stati tanto. dentro l'organizzazione di POQ anche quest'anno, che è stato tutto streaming? Io personalmente come montatore video, sì. Bene, Tra ora l'altro io mi sì. presento, mi chiamo Lorenzo, non ci siamo mai conosciuti, però Stefano mi ha anticipato Piacere, di io questa sono Andrea. intervista e Piacere, mi piacere. interessava molto anche perché ho in serbo una domanda di quelle che dici, ma perché mi ha fatto sta domanda? Mi piacciono quelle Bene, domande. siamo in Mi due. piacciono. No, per tornare Anche sul. perché io ho diverse lauree. Ma la prima che ho preso è all'università dei Paraculo. E quindi le domande complicate mi piacciono perché stimolano la mia creatività. Bene, benissimo. Eravamo compagni di corso, quindi va tutto a posto. E quindi sì, no, in realtà è un po' la mia paura questa, nel senso che lo era prima della grande potenza mediatica dei social network e ora ovviamente sta diventando un incubo, perché ci siamo invischiati fino al collo e forse è uno dei pochi canali che ci sono rimasti effettivi, perché le piazze e le strade erano chiuse. Quindi parlo del qui ed ora, perché domani ovviamente sono altri giorni e sta a noi anche capire come fare riprenderci certi spazi. Però per entrare nel vivido dell'intervista che avevamo preparato, che ha preparato Stefano e che io ho contribuito con una domanda, vorrei iniziare appunto, perché avevi anticipato al tuo passato, e chiederti nello specifico qual era il tuo lavoro prima dell'emergenza coronavirus. Allora, sì, prima dell'emergenza coronavirus lavoravo dentro un centro di aggregazione giovanile per diversi progetti di fondazione, regione, Unione Europea, eccetera, sempre inerenti al protagonismo giovanile, alla promozione del protagonismo giovanile. E poi lavoravo per un'educativa territoriale per lo sviluppo delle politiche giovanili di un comune. E se così faccio le didascalie alle varie cose, allora, per chi ci ascolta e magari non è tecnico, un centro di aggregazione giovanile è una cosa molto semplice e tradizionale nel nostro paese, è uno spazio del comune dato in uso a una cooperativa attraverso un bando in cui è aperto al territorio per aggregare i ragazzi con attività varie ed eventuali che poi vengono ritagliate sui ragazzi. Le altre due cose invece sono cose un po' più moderne, un po' meno tradizionali. La spinta per il protagonismo giovanile attraverso bandi vari, eccetera, sono tutti azioni di diversa natura che mirano a coinvolgere attivamente dei gruppi informali di ragazzi e anche non solo di ragazzi, anche intergenerazionali, eccetera. Nella cittadinanza attiva, cioè nel costituirsi di collettività che agisce, che è creativa, che è produttiva rispetto al resto della comunità. Ok. E in questo senso, negli anni abbiamo fatto mostre, abbiamo usato tantissimo lo strumento della biografia di comunità attraverso foto, video, videoclip, interviste, eventi, Che rassegne. figo. Sì, molto bello, conferenze stampa dove si parla della comunità, dove le diverse persone intervengono, eccetera. il teatro dentro tutto questo, poi che abbiamo utilizzato la musica, tantissimo la musica. E la musica, vabbè, prevalentemente noi usiamo l'hip hop e il rap per lavorare con i ragazzi. Abbiamo uno studio di registrazione, tantissime collaborazioni. Adesso abbiamo dovuto fermare i nostri laboratori musicali, le registrazioni, l'organizzazione di eventi, di concerti, Per forza di cose. per dare luogo a con questo vuoto ci siamo inventati la radio. Ok, perché la radio era uno strumento che fino ad ora non avevate mai utilizzato prima. Mai, mai, mai. Era un'idea che era lì, però c'era sempre questo, quello, quell'altro da fare. In realtà questo lockdown generale ci ha lanciato in questo magico mondo. Ci sono degli esempi illustri nel nostro territorio di operatori sociali che hanno utilizzato la radio, penso a Shell Radio, che quasi Sì, sicuramente certo, conoscerete, certo. che ci ascolta, conosce, e insomma, ci sono anche altre realtà meno conosciute ma comunque molto attive. Mi viene in mente la web radio di Arese, ce n'è un'altra, mannaggia la miseria, non mi ricordo il nome, vabbè, comunque insomma, in questo lavoro qua per ora noi abbiamo cominciato semplicemente a fare quello che facevamo prima, mettere in connessione le persone attraverso la musica, però utilizzando il mezzo radiofonico. Ok, ma Noi... sai che, scusami un attimo, mi ha Vai, vai. colpito una cosa che hai detto prima, perché è successa praticamente la stessa cosa qui. Tu dicevi che era una cosa che avevate in mente e poi grazie al, diciamo, il tempo che ci ha concesso, passami il termine, questa quarantena, siete riusciti finalmente a metterlo in pratica. È successo più o meno anche a noi, perché noi la radio ce l'abbiamo da, abbiamo fatto un anno poco fa, ma fino a, appunto, a questo periodo non facevamo sempre dei programmi, delle cose, ma non con l'assiduità e con la frequenza di ora. Quindi ci ritrovavo molto in quello che dicevi. Ed è stata una scoperta che mi ha innamorato questa della radio, comunque. Prima la ritenevo una cosa interessante, invece cominciando a farla ho proprio pensato, wow, che roba potente, che roba bella che è la radio. Sì, è proprio così. E concretamente, cioè, in che modo utilizzate la radio e che programmi, Bravo, bravo, volevo farla io questa domanda, be bellissima. Insomma, che Allora, genere di attività fate in radio? beh, noi, come dicevo prima, utilizziamo, vabbè, tecnicamente utilizziamo Spreaker come piattaforma. È una piattaforma che ci permette di registrare. Partiamo dalle basi, dalle cose tecniche. Facciamo delle chiamate o in Skype o in Teams. Queste chiamate attraverso una scheda audio virtuale che si chiama Cable, le connettiamo alla piattaforma radio e registriamo tutto in modo da Ok. poter registrare sia la chiamata che la musica che viene mandata. Così abbiamo due canali audio che altrimenti il telefono, il computer non ci permetterebbe di avere due canali audio. E questo tecnicamente è come facciamo. Non ce la siamo inventata proprio così, un 2-3 stella la radio, nel senso che noi ci siamo appoggiati, facendo tutti questi lavori di comunità, eccetera, facciamo tanto lavoro di rete, quindi e collaboriamo a seconda dei progetti sempre con tante realtà. E questo Certo. potenzia il lavoro e le possibilità. E anche la bellezza di quello che fai. E quindi niente, uno di questi attori con cui stavamo per collaborare aveva questa web radio, e Ok. allora non era previsto nei termini del progetto di fare la radio, e allora abbiamo dato la situazione, abbiamo convertito le ore attraverso una complicatissima procedura con la regione, il comune e i responsabili del progetto, chi più ne ha più ne metta, per fare la radio, e siamo partiti alla grande. Quindi fortunatamente c'era qualcuno che già aveva fatto tutto, perché se avessi dovuto costruire una web radio così, penso che avrei cominciato a fare le trasmissioni adesso, dopo 2 mesi, ecco. Sì, certo, diciamo che tu hai sfruttato, come dire, un contatto della tua rete di professionisti con cui lavori e ti sei appoggiato a Esatto, una radio esatto. già esistente. E invece programmi, che tipo di... Tu so che fai un Allora. programma di musica. Sì, noi facciamo plug and play on air, Allora, per l'educativa, lo sviluppo delle politiche giovanili di questo comune ai margini di Milano, Sì. appena fuori Milano, noi abbiamo iniziato come si dice? Abbiamo creato questo brand insieme a un gruppo di ragazzi, facendo una call pubblica, che è Plug and Play, Ok. attacca e suona, e riguarda tutte, e usiamo questo come nome per tutte le attività che noi facciamo di aggregazione, di promozione del protagonismo giovanile, che riguardano la musica. E Ok. quindi abbiamo creato la trasmissione, abbiamo messo a frutto tutti i contatti degli ultimi anni, intervistando dapprima i ragazzi dei nostri laboratori, poi i ragazzi che sono intervenuti ai nostri contest, che hanno partecipato alle nostre attività, tutta gente del territorio e limitrofa al territorio di questo comune. Ok. E niente, abbiamo strutturato un'intervista, la trasmissione Plug and Play On Air, e abbiamo strutturato questa intervista che si basa molto parte dal personale, un po' da come si vive adesso, con una selezione di brani musicali, uno sul Covid, uno un paio propri e uno di un artista che si ritiene interessante, e poi si va a parlare un po' della cultura hip hop. Quello che abbiamo cercato di fare, dato che la quarantena ci costringe a stare chiusi e non possiamo fare degli eventi, abbiamo detto, bah, noi con la musica facciamo svagare, aggregare le persone. Poi sì, certo, quello che canta, quello che produce, quello che partecipa al laboratorio, gente che si fa un'esperienza e se la porta a casa. Tutte le altre 150 persone che poi aggreghiamo nell'evento passano del bel tempo. Invece in questo modo, con la radio, noi possiamo prendere un momento di riflessione, cioè stacchiamo dal groviglio di relazioni, eccetera, e ci dedichiamo invece a fare un attimo di cultura nel senso veramente schietto della roba, cioè come mai il rap adesso sta andando così, com'è il rap nel 2020, come potrebbe andare avanti, il rap andrà nelle università, cioè attraverso queste domande che poi abbiamo rispettato sì e no, davamo luogo all'emersione di tanti contenuti sulla cultura rap contemporanea e sul percepito della tradizione, o anche riflessioni come era il rap 10 anni fa, come è adesso, come era 20 anni fa, così uno lo vede in linea un fenomeno, no? Un movimento. E questo ci ha permesso, beh, di scoprire delle cose noi come operatori, le persone che coinvolgiamo e anche tutti i loro amici che ascoltano la trasmissione adesso. Certo. Quindi un momento di riflessione in più per tutti, ecco, di cultura, in cui tutto il fare si ferma e si deposita e si può andare a prendere il limo, la sostanza fertile. Certo. Bellissime parole, sono d'accordissimo quasi su tutto praticamente. Sì, anch'io. Da quello che dicevi, mi sembrava che, secondo te, la radio è, diciamo, uno strumento potenzialmente molto importante sia per chi la fa, cioè chi parla in radio, sia per chi ascolta. E come? E quindi volevo chiederti, secondo te, qual è il valore educativo della radio, sia per chi la fa, sia per chi invece ascolta un programma radio? Beh, allora, per chi lo ascolta dipende ovviamente dal programma, dipende Certo. dalle persone dagli argomenti che vengono trattati, da come intervengono le persone. E per chi la fa, il valore educativo è la responsabilità di privatamente dal suo, però di parlare a un pubblico. Cioè, tu sai che è come io sono qua davanti al telefono, ma mi immagino di essere davanti a una platea di persone. Quindi io ho meno pressing, da una parte, però sono comunque conscio della responsabilità del fatto che non parlo per me stesso e basta, o è una chiacchierata tra amici, tra me e voi, ma sto parlando ad altri mi stanno ascoltando e questa è una responsabilità comunicativa. Per chi la fa poi, nel senso, come tutte le cose che noi spingiamo come protagonismo, è il valore di un'esperienza che si aggiunge al tuo bagaglio. Oggi ho imparato delle cose tecniche, oggi ho imparato delle cose invece di relazione, ho imparato a tenere il ritmo di una conversazione in radio. Tutti questi aspetti, però, io ti posso dire quello che ho imparato io, perché per ora noi siamo a una fase, alla prima fase larvale. Noi adesso, quando riusciremo a tornare nel nostro studio di registrazione, è nostro intento smettere di far condurre a me i programmi, ma piano piano tirare in mezzo i nostri ragazzi e affiancarli nella conduzione, in modo che la cosa poi prenda piede e la facciano direttamente loro, ecco. E allora lì ti saprò dire meglio quale valore educativo ha per i ragazzi fare la radio. Per me il valore educativo che ha avuto per me è quello di stare a sondare, di ascoltare ancora più minuziosamente quello che viene detto, perché tutto qui è subito nella radio. Allora devo stare attento a quello che tu dici, Certo. no, facciamo una conversazione molto superficiale in cui io non sono attento, invece sto attento, prendo tutto quello che tu mi dici e cerco di farlo emergere ancora di più. Questa è una cosa da educatore che tu fai nella vita. Ascolti quello che ti viene detto e cerchi di far emergere le cose dalla persona, di fare delle domande, di portare la tua attenzione. In radio questo con una concentrazione, con più concentrazione, però acquisisce ancora più significato, perché quello che viene detto non viene perso nella quotidianità, nel parapiglia generale delle cose di un centro giovani dove uno va, l'altro viene, cioè sono cose che invece restano, sono cose che vengono dette virtualmente davanti a una platea e che poi restano là e sono emerse intanto. E questo sicuramente non ci avevo pensato, grazie per la domanda, questo sicuramente è un valore educativo importante. E com'è andata la mia arrampicata sugli specchi? Sono Da stato bravo? Dio, No, da guarda, Dio, anche no, secondo me. anche perché hai ovviamente colto molte caratteristiche che stiamo provando anche noi in questo momento, perché come giustamente ha sottolineato Stefano, noi come radio siamo attivi da un anno, ma da quando è iniziata l'emergenza che molti e molte di noi ci si sono dedicati praticamente quasi a tempo pieno. I programmi nascono come funghi e diciamo che quella solita retorica che si utilizza se vogliamo tirar fuori qualcosa di positivo da questa esperienza emergenziale, sicuramente Radio ZM ne ha tirato fuori davvero tante cose positive e a me fa piacere perché mi occupo spesso e volentieri del lato tecnico. E insieme ad altri sono uno di quelli che ha un pochettino più esperienza e quindi per me i miei compagni e le mie compagne sono come un po' per te i ragazzi che e le ragazze che partecipano al corso, al laboratorio, alla trasmissione e vedere come in così poco tempo abbiano imparato tutti e tutte ad essere autonomi, a capire i tempi, a prepararsi i contenuti, a capire co l'importanza del podcast, della registrazione e di far andare tutto bene è una gioia per me. Veramente infinita perché la passione radiofonica sembra quasi come la pasta asciutta, piace un po' a tutti nel momento in cui la provano. E adesso giochiamo con te un pochino perché molto spesso interrompiamo a gamba tesa le interviste per chiedere all'ospite in questione un brano da mettere live, qualsiasi esso sia. Quindi ora ti Oh. scegli una canzone che vuoi che venga trasmessa a tutti e tutte, facciamo una piccola pausa in cui non mettiamo giù il telefono con te, ma dietro le quinte ci raccontiamo le cose più divertenti e poi torniamo subito in diretta. Quindi in questo momento puoi dirci una canzone che verrà mandata ora. Va bene, va bene. Allora vorrei Fabri Fibra, non so se è Uomini di Mare o che diavolo di album è. Comunque è una canzone della mia infanzia, è una delle prime canzoni che sentivo a ripetizione quando ho cominciato a innamorarmi del rap, e quindi vorrei di Fabri Fibra. Va bene? Arriviamo Sì, non subito, ci sono intanto limiti. esattamente, non forse addirittura sai che ce l'abbiamo in database. Prova a vedere Tracks e cercalo là sopra, nel cerca. Vedi, noi anche in live costruiamo sempre più. Sì, beh, questo è Yes, interessante. ce È l'abbiamo. interessante. Ce l'abbiamo. Ci avrei dovuto pensare tantissimo di più se me l'aveste chiesto prima. Invece così è stata un po' la prima che mi è venuta Esatto, a in bruciapelo, ci mente. piace questa cosa qua del Esatto, live è proprio. un bel meccanismo. Lo sfrutterò anch'io. Rubo, Bene, rubo. Dai. mandiamo la traccia, ci sentiamo fra pochissimo. Ciao. Dimmi dai, prima di andare, dai, dimmi dai. Oggi il caldo arriva a temperature assurde, sudo. Colto dall'afa giro per casa mezzo nudo. Che vuoi che sappia la gente di noi? Resta un segreto che mantengo ormai da tempo al chiuso e m'asciugo. La casa è piena di sti dissetanti, in giro solo volti bianchi. Ora più che mai sento quanto manchi. Intorno un vuoto che sta entrando batte come un tango. Va bene così perché è da me che stai tornando. Dopo una notte simile a quella di ieri dove tu non c'eri. Evito le storie che mi presentano troppi misteri. A volte pensi di far chissà che con simili cambiamenti. Più tenti e meno mi accontenti. Senza lei sono perso come il tempo custodito in un suono. E come si sa, per ogni ragazzo ci sono sette donne, ma di che età? Che tutti mi dicono dalle mene andrà in difficoltà. Ma funziona così, va bene così, finché me la prendo con comodo. Il modo di fare le cose che non tutti approvano. A più puntate di amici ne ho andate, sedate di amate, ma l'unica è lei che mi fa estate. Oggi alla radio hanno ridetto sole. Si pensa che sarà senza alcun dubbio luglio migliore. Sarà che chiuse le scuole ci si perde in due ore, per ritrovarsi altrove nei primi d'ottobre con delle nuove. Che pezzo, ringraziamo Andrea per sta scelta fantastica, infatti era già in database questo disco. Esatto. Vorrei i suoi occhi, io vorrei, dimmi dai. Poi a me piaceva che non ci si capiva niente, ma tuttora, no? Cioè quei pezzi lì di Fabri Fibra erano molto ascoltabili rispetto a molta roba tecnica che c'era in giro allora. Penso a un album come Post Scripta di Chaos One, che è, cioè, bellissimo, ma veramente difficile da ascoltare. Si ascoltava facilmente, però comunque non ci si capiva un cazzo di quello che diceva. Rimaneva tutto molto aperto, il senso, eccetera. Quindi mi faceva viaggiare con la mente, mi piaceva tanto, non mi stancavo mai di sentirlo. Confermo, è la stessa identica sensazione che ho avuto io nei primi due dischi che ho ascoltato, che sono Uomini di Mare e Mister Simpatia. A una certa età non ci capivo praticamente la metà delle cose che diceva, però il groove era bello, quindi era tutto bellissimo e via. Ah, com'è che è, se non capisci le parole puoi sentire il funk? Esatto. Come la canzone di Neffa. Bene, torniamo a parlare con Andrea, abbiamo ancora in serbo un paio di domandine. Prima ci dicevi che quello che ti piacerebbe fare è poi, diciamo, allargare questa cosa della conduzione radiofonica, non solo la fase 2, esatto, sì. Diciamo mm-hmm. così, non soltanto tu conduci il programma facendo intervenire vari personaggi, varie persone, ma allargarla ai ragazzi. Certo. Quindi la nostra domanda è questa: che cosa terrai tu di questa esperienza della radio dopo questa, quando diciamo usciremo dall'emergenza? Cosa terrò io, cosa mi rimarrà a me come persona, sì, come esperienza? Sia come persona che come professionista. Allora, come persona io sono un ex, non si smette mai, sono un performer, un teatrante, e quindi il fatto di essere salito sul palco in questo modo per me è assolutamente nuovo. Per me salire sul palco tutte le volte è una gioia, e quindi mi porto dietro questa gioia qua. anche di conoscere delle persone, di fare delle chiacchiere, non lo so, ho intervistato dei ragazzi che vedevo da anni, con cui collaboravo da anni, con alcuni c'era un rapporto già bello, e però comunque di alcune cose profonde che sono emerse nelle trasmissioni non avevamo mai avuto un luogo fisico o relazionale per tirarle fuori, e invece in un non luogo come alcuni potrebbero pensare che è la radio, invece abbiamo trovato in questo spazio. Quindi anche questo, sono in alcune relazioni sia professionali che umane, io non distingo molto la cosa, cioè sì, però no, e qua è tutto un discorso educativo che non facciamo in questa sede, e si sono approfondite molto, e questo me lo porto proprio a casa, mi è piaciuto molto. A me come professionista mi viene invece uno strumento in più, ho imparato io a usare uno strumento in più, ho iniziato a diffondere tra tutti i miei colleghi e i miei collaboratori e i ragazzi con cui lavoro uno strumento nuovo, con cui potrò tirare in mezzo un sacco di gente nuova a fare altre cose. E quindi questo io capitalizzo, anche se il capitalismo non ci piace, però... Oh. Il capitale umano, insomma, certo. Io capitalizzo nel capitale umano. Questa la chiudiamo, la registriamo per questa frase di 5 secondi. Io capitalizzo per il capitale umano, la mandiamo in loop, come abbiamo detto con Guglielmo diverse volte durante la notte. Abbiamo deciso di faremo queste quote, queste cheat dei nostri ospiti. No, io avevo una domanda, in realtà ne ho due, e te le faccio entrambe così a gamba tesa, poi decidi tu a quale rispondere per prima. La prima è una cosa a cui mi riallaccio, che hai detto di esserti accorto appunto provando di quanto possa essere bello e potente questo strumento. Vorrei che mi raccontassi se c'è stato un momento preciso in cui è avvenuta questa cosa, se ti ricordi, che magari eri nella nebbia dell'incomprensione di questo strumento e poi ti si è illuminata la lampadina, se è successo qualcosa di specifico. E la seconda domanda invece è un po' più, tra virgolette, negativa, ma giustificata. Volevo sapere da parte tua cosa ne pensavi di appunto questo assiduo utilizzo di dispositivi che si sta ovviamente propagando e su cui il famoso osannato capitale prima o poi capirà che potrà lucrarci anche su questo, a livello di contatti, a livello di relazioni, cosa che tu hai sicuramente studiato nelle piazze, nelle strade, nei luoghi che hai visitato prima dell'emergenza. Può intaccare in qualche modo, anche in modo negativo, quello che sono appunto l'incontrarsi con le persone, poi questo massiccio utilizzo di dispositivi? Ok, aspetta, partiamo dalla seconda perché è fresca, è lì. Allora, cioè per il tipo di gente, cioè secco io rispondo no, cioè se ho capito bene la domanda la mia risposta è no, nel senso che la gente che sta in piazza per riempire il proprio tempo, se la vuoi vedere in modo negativo e per alcuni è così, oppure condividere il proprio tempo se invece la vuoi vedere in un modo più positivo e per alcuni è così, e non smetterà assolutamente di farlo. E chi invece già stava chiuso in casa o stava in una vita molto... anche gli studenti sono stressati, anche gli studenti delle superiori sono stressati, quindi in una vita di performance scolastica molto impegnativa, dove poi finisco quello, dopo ho la band, oppure ho il jiu-jitsu, oppure ho, non lo so, quelli comunque, cioè, non li vedi prima, non li vedi dopo, e per loro non cambierà molto, anzi, diciamo che io spero che loro in questo periodo, cioè chi non frequenta le piazze in questo periodo abbia imparato a utilizzare di più i social per stare connesso in un modo sano alle altre persone. Io non sono proprio anti-social, non mi piace, devo dire, mi piace il calore umano e tutto. Io vedo le cose come degli strumenti, come delle opportunità. Per me il teatro è uno strumento, la radio è uno strumento, la fotografia è uno strumento, e i social anche, uguale. È un bel tema questo qua del social, ci fa bene, ci fa male. E dipende da come lo usiamo, è una risposta molto banale, però penso che sia proprio la risposta giusta. Io per esempio ho cominciato a fare, ma come tantissimi dei miei amici, un sacco di videochiamate con i miei genitori, no? Chi chi le faceva le videochiamate prima? Anche con amici, no? Puntelli con amici. Chi le faceva prima le videochiamate? Cioè, non per questo io ho meno voglia di vedere i miei genitori o i miei amici, no? Però adesso, se io torno da lavoro, poi devo andare all'altro lavoro, poi devo tornare a casa e fare quello sbattimento lì, tornare, imboccare mio figlio, ho un'ora libera, cazzo, anche quando finirà la quarantena posso prendere un appuntamento al volo con un amico, farmi una videochiamata, bermi una birra. Questo non mi porterà a vedere di meno il mio amico, o sì? Lo staremo a vedere, non lo so. Bene, mi piace, una risposta non me l'aspettavo. Mi è piaciuta, sì, mi è piaciuta molto. Non mi piace chiudere le cose, certo. vediamo come vanno. Invece riguardo la prima domanda, me la sono dimenticata. La prima domanda era, quando prima parlavi del fatto che ti sei accorto che la radio, non conoscendola prima e conoscendola dopo, è un mezzo molto potente, sì, se c'è stato un momento che ti ricordi in particolare in cui eri poco prima nella nebbia dell'incomprensione di questo strumento e poi ti si è accesa la lampadina, un accadimento, qualsiasi cosa. Allora, no, come strumento io sono un ascoltatore, ascoltatore. Quando voglio ascoltare musica ascolto LiveGate, quando voglio ascoltare programmi interessanti e metto su Radio Popolare, e quindi a me piace ascoltare la radio. Poi ho degli amici che fanno radio sia per lavoro, cioè sia radio che radio educativa e nel mondo del sociale, eccetera, e già era uno strumento che mi garbava. Non avevo mai preso in considerazione di usarla in modo attivo così. E mi ci sono trovato e ho detto, figata, una cosa nuova, una cosa in più, facciamolo. E poi mi sono trovato la prima volta davanti al computer con il programma e tutto, che dovevo iniziare per la prima trasmissione. Poi io sono un barbaro, cioè non so come diavolo si usa Audacity. Adesso ho imparato a usarlo, per se faccio degli errori li taglio, li sistemo, eccetera, ma la prima trasmissione no, quindi one take, cioè è come essere in diretta praticamente, chi c'è, chi non c'è, non c'è, quindi qualsiasi errore è un casino. E lì avevo il cuore che mi pompava bello potente, tum, tum, tum, tum. E allora ho sentito come ho risentito come l'adrenalina prima di salire sul palco o prima di fare una performance, eccetera. E questo mi è piaciuto molto. Questo direi come episodio per rispondere alla tua domanda. Mi trovi... Io ho sentito che era una roba che mi coinvolgeva personalmente. Pienamente d'accordo, sì. Pienamente d'accordo, davvero. Se riscavo nella memoria esattamente la stessa sensazione che ho avuto io, e quello te lo dà molto, molto il live, o l'impressione ovviamente del live nel momento in cui stai registrando. Premetto che nella mia prima esperienza radiofonica, che ricordo con gioia e saluto, è un programma che si chiama L'Onda, durato 4 anni e mezzo, il primo anno e mezzo l'abbiamo passato a registrare perché avevamo troppa ansia ad andare in diretta, e per noi già la registrazione era quel premere il bottone e doveva andare tutto filato liscio, perché schiacciavamo rec e poi lo spegnevamo, non facevamo editing a quel tempo, ed è lì che mi è nata tutta questa emozione fortissima di cui hai appena raccontato. Mi è venuto in mente un paragone tra la radio e l'hip hop, nel senso che è un paragone che secondo me funziona oggi, ma in passato molto di meno, e cioè che per fare la radio oggi, come per fare il rap da sempre, non ci vuole un cazzo di cose materiali, basta volendo l'audio, cioè il registratore del telefono, tu ti registri quello e poi ci lavori dopo, quindi è veramente una cosa super immediata. E secondo me anche per questo aspetto, rispetto a quello che dicevi prima, potrebbe essere una cosa che riesce a, diciamo, acchiappare delle persone che normalmente non acchiapperesti. Vero. Sì. Vero, vero, vero. Sai cosa mi avete fatto venire? Io, per esempio, io frequentavo un sacco i collettivi, sia da studente, qualcosina durante l'università, ma soprattutto dopo. Ho frequentato un collettivo nel mio quartiere per tanto tempo, in modo attivo, ho partecipato a un sacco di roba, sia per il collettivo che di rete, eccetera. E poi, insomma, le vicissitudini della vita, anche il posto dove vivo adesso, ti portano via, ti tolgono tempo, eccetera. Per cui, prima di adesso, non avevo mai pensato che avrei potuto continuare a fare delle attività politiche in remoto, mentre invece per tornare sul discorso dei social, no? Adesso lo stesso, se posso bermi una birra con un mio amico in 20 minuti che ho di buco tra un casino e un altro, e allo stesso modo, cavolo, beh, con un po' più di organizzazione, non all'ultimo, niente mi toglie di poter continuare a far parte di un collettivo, no, ma di di un programma radio, di un collettivo, se lo desiderassi, e questo potrei farlo grazie ai prodigi della scienza e della tecnica, che questa casino di quarantena ci ha immerso ancora più dentro. Speriamo, come dicevate voi, che nessuno ci speculerà particolarmente su questa roba. Però vediamo, Dobbiamo essere vediamo. furbi noi ad accorgercene se succede e abbastanza lungimiranti da Sì. poterlo raccontare. Vabbè, ma tanto io penso che loro già ci guadagnano, nel senso, non c'è niente di gratis nella vita se non arricchisce nessun altro. E già loro estrapolano un sacco di dati da tutto quello che noi facciamo con i cellulari, con internet, e con quei dati sembrerebbe, io incredibilmente per la mia mente che è così, così ostica a progettare il profitto, però con questi dati loro riescono a creare dei profitti incredibili. E io non riesco a capire come funziona questa faccenda, come non riesco a capire, cioè ho anche studiato la crisi economica, cioè le faccende delle bolle speculative, ho provato, ho guardato dei film, dei documentari, ho letto, io non capisco proprio come si comporta questo cazzo di valore non reale delle cose. Per cui questi riescono a farci del profitto e speriamo che si accontentino di questo e non vadano oltre, ecco, come dire. Certo. Beh, che dire, hai detto delle cose super interessanti. E Ringrazio. noi di tutte le trasmissioni, di tutti gli interventi in radio creiamo dei podcast, quindi gli ascoltatori e le ascoltatrici potranno o risentirselo oppure sentirselo in differita se non erano presenti qui ora. E quindi diciamo le cose che hai detto rimarranno Esatto. Incastonate negli hard disk digitali di Radio ZM. tutte le cazzate che ho detto. Va bene, va bene. Possiamo colorare questo podcast ancora meglio con un altro brano che ci consigli, perché secondo me ne hai detto uno e poi hai detto potevo dire anche quello, che Eccolo qua. Beh, io direi arrivati a questo punto, così, visto che siamo proprio qua e visto che sì, che voglio essere provocatorio, voglio essere, io metterei un mestiere qualunque di Corveleno con il grandioso Primo Brown che è volato in cielo e che salutiamo noi da qua giù. Lo conoscete il Ok, pezzo? sì, lo stiamo cercando nel database. Questa operazione richiede, diciamo, 1 o 2 minuti, e nel frattempo potresti raccontarci del perché di questo brano. Beh, questo brano io l'ho scoperto recentemente e io so che è un brano che appena uscito non ha riscosso un grande successo da parte della nostra parte politica, ecco. E non lo so, mi sono chiesto il perché, cioè a volte io riscontro nei movimenti a volte, ma riscontro nelle persone anche, in qualsiasi tipo di persona, a volte una forma di dogmatismo, di chiusura, di ottusità che chiude, cioè che proprio chiude lo sguardo, che deve essere uno sguardo invece presente, multiforme, attento. Uno sguardo critico, uno sguardo che coltiva la sua posizione, non deve essere una posizione statuaria dove non ci muoviamo mai, ecco. E quindi per questo, c'è gente che parla di liberazione spirituale, invece è chiusa, c'è gente che parla di resistenza culturale, e invece è chiusa. C'è gente che parla di. Ci sono un sacco di contraddizioni. Ecco, per questo ho voluto scegliere questo pezzo, perché questo pezzo mi sembra che porti bene una contraddizione. E io lo trovo un pezzo bellissimo per quello che dice. È Primo Brown, un mestiere qualunque, riprende tutta la storia dell'uccisione di Carlo Giuliani Bomba. dal punto di vista dell'eventuale persona, del suo assassino, del carabiniere, dello sbirro che gli ha sparato. e presenta la storia di questo sbirro e ti fa, te lo mostra sul lato umano, dici guarda, guarda questa roba qui com'è andata, no? È interessante, dà un altro sguardo, a volte la risposta più immediata è la rabbia, la ferocia, e a noi che cosa ce ne viene della rabbia e della ferocia? Non ci resta niente, invece un pensiero su un sistema, non lo so. Grande Andre, no, io ho capito molto bene, ma lasciaci con giusto due info dove possiamo recuperare appunto i podcast, le cose che fate su internet. Ok, beh, guarda, trovate tutto, se vi interessa la radio online, trovate tutto, porca, ho ingoiato della polvere, su Radio Web Arese. Su Radio Web Arese trovate tutte cose. Poi in realtà ci sono tantissime trasmissioni fighissime, anche su, come dicevamo, su Shell Radio, e niente, poi ascoltatevi pure ZAM, perché bella, di brutto. Quindi un mestiere qualunque. Grazie Andrea, ci risentiamo. Grazie a voi Stefano e Lorenzo, alla prossima, e magari ci incontreremo nella vita reale, vedi? Chi anche senza preso? Magari, quasi sicuramente, dai, penso. Dai. E speramos. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.